Buongiorno, avete ancora pazienza di ascoltare? Sì? Ha ancora voglia? Sì. Io voglio raccontarvi prima una storia, visto che questa mattina sembra il momento dei ricordi. Era il 1997, questa è una storia vera, ho il testimone più affidabile che ci potesse essere qui presente, ed è il pastore Pinuccio. Stavo andando a Monteforte Erpino ed eravamo nei pressi di Potenza, e in quel periodo c'era una situazione particolare. C'era un uomo della chiesa che aveva bisogno di assistenza in ospedale, e noi stavamo organizzando per poter sostenerlo, per poter dargli un conforto. E nel 97 era l'inizio proprio che i cellulari erano diventati accessibili a tutti, anche io ne avevo uno, pensate un poco, e quindi era facile ed era anche di moda tirar fuori il cellulare, telefonare e organizzare le cose. Quindi quello stavamo facendo. Con il pastore stavamo telefonando, lui aveva il mitico 3210, io invece avevo lo StarTAC, era una competizione fra di noi. E quindi telefonavamo e stavamo telefonando a un fratello della chiesa, per, diciamo, lo chiameremo Tonio, ecco, Tonio, lo chiameremo Tonio. E allora lo chiamiamo, Tonio, ciao, come stai? Bene, tutto a posto. E guarda che stiamo organizzando per poter fare la notte con il fratello che chiameremo Vito. Con il fratello Vito. E dall'altra parte, pronto, non si sente. Allora abbiamo pensato, forse sono i cellulari che non funzionano. Eravamo nei pressi di Potenza e quindi abbiamo cambiato cellulare. Invece col suo abbiamo chiamato col mio, che era, allora di nuovo... Ehi, ciao Tonio, come va? Bene, è caduta la linea, non si sente. No, si sente bene. Senti, io ti sto chiamando per organizzare per il fratello, abbiamo detto? Vito, per il fratello Vito, per stare con lui, per stare, diciamo, per stare la notte, perché ha bisogno. E lui di nuovo è iniziato a dire, pronto, non si sente. Al che abbiamo pensato, impossibile. Possibile che non si sente. Allora io ho capito, ho avuto un'intuizione, fatemi dire così. Ho detto, pastore, per piacere, accostiamo, fermiamoci in un'area di servizio e andiamo alla cabina a telefonare. Perché la cabina è certamente, è ancora oggi, il sistema più certo, più sicuro. Allora abbiamo reperito i gettoni, abbiamo messo i gettoni, fatto il numero. Pronto, Tonio, sono di nuovo io. Pronto, non si sente. Non si dice non si sente, che è dalla cabina. Questo per dire che se noi ci scontriamo con una notizia o con una richiesta che non ci piace o non ci convince, siamo molto propensi a non sentire o non ascoltare. È storia vera, pastore? Ho aggiunto, ho tolto qualcosa? È esattamente così. Vabbè, ma questi sono i credenti di una volta, mo non c'entra più adesso, è tutta un'altra storia. Però questa storia ci fa vedere veramente come noi siamo abili a trovare delle scappatoie per non capire quello che non ci conviene. E Gesù, nel suo dire, ha detto delle cose molto rilassanti, molto riposanti, che sembrano l'abbraccio della mamma. Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed aggravati, e io vi darò riposo. In Matteo, al capitolo 11, 28. Fatemi mettere gli occhiali, che non voglio dire la cosa per l'altra. In Matteo 11, 28 ha detto Gesù, venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliate, e io vi darò riposo. Stanchi e oppressi, io vi darò riposo. E quando noi ascoltiamo queste parole di Gesù, sono un abbraccio, sono un bacio, sono qualcosa che ci dà conforto, ci dà bellezza. Però Gesù ha detto anche delle frasi diverse, ha detto delle frasi che sembrano scomode, che un po' sono, come dire, in contrasto con quell'abbraccio che sembra che il Signore ci vuol dare. E noi possiamo pensare che l'Evangelo, credere in Dio, avere un rapporto con Lui, sia soltanto, ecco, andare da Lui, essere consolati, essere abbracciati, e che tutto va bene. Però Gesù ha detto anche delle altre cose, ed è proprio una di queste cose questa mattina che vogliamo andare ad approfondire un poco. E Gesù stava camminando e si è avvicinato una persona da Lui e gli ha fatto una domanda un po' retorica. Ha detto: Signore, in Luca al capitolo 13, 23, ha detto: Signore, ma i salvati sono pochi? Lui si stava regolando per capire, dice: io dov'è che sto? Ma i salvati sono pochi? E Gesù gli ha detto: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi stando fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici, ed egli vi risponderà: io non so da dove venite. In Matteo 7, al capitolo 22, nello stesso contesto, nella stessa storia, viene aggiunto un dettaglio. E viene detto di questa storia che Gesù aggiunge, dice: molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato in nome tuo, e in nome tuo abbiamo cacciato i demoni, e fatto molte opere potenti. Allora io dichiarerò: io non vi ho mai conosciuti. E questa storia, se noi la leggiamo in questo modo, è una storia un po' scomoda, una storia che non ci mette a nostro agio completamente, ma se proviamo a contestualizzarla fra di noi, nel nostro mezzo, adesso, suona un poco così, che il Signore viene a farci visita e distrattamente così si siede proprio vicino a me, si siede accanto a me e io un po' lo riconosco e gli dico: Signore, me? Vedi che bella chiesa, cioè proprio, hai notato le cellule come funzionano? Soprattutto le cellule degli adulti, no, non è per dire, però... Hai notato le cellule come funzionano? Hai notato il gruppo della musica, i bambini? Hai notato, e poi la conferenza, cioè se vogliamo parlare della conferenza, ti ricordo l'anno scorso, quest'anno, di più. E mentre sono lì che gli faccio, diciamo, questo elenco vero, questo tutte cose vere che sono in mezzo a noi, e sono lì che mi aspetto una gratificazione, un elogio, che se uno dice: ma vuoi sentire? Veramente che non c'è più da aggiungere. Il Signore invece mi risponde e dice: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. E quando il padrone di casa verrà, si alzerà e chiuderà la porta, voi stando fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, Signore, aprici, ed egli vi risponderà: io non so da dove venite. E se il Signore mi risponde così, io rimango un po' spiazzato, rimango con la bocca aperta, rimango senza fiato e cerco di riprendere il filo del discorso e di pensare, dice: ma sta dicendo proprio, cioè si è reso conto che siamo nella chiesa del Pieno Evangelio di Modugno, in via Alberotanza. E mentre sto lì per replicare, per dire: Signore, ma guarda che noi abbiamo un ministero dei bambini che è all'avanguardia, dove veramente ci prendiamo cura e vogliamo dare il meglio per tutti, e il Signore mi dice, mentre sto replicando: molti mi diranno: Signore, Signore, in quel giorno abbiamo profetizzato, abbiamo fatto questo e quest'altro. E io gli dirò: io non vi ho mai conosciuti. E il Signore sta parlando di noi qui, adesso. E poi a quel punto io non c'ho niente da dire. Non c'ho proprio più niente da dire. La cosa sorprendente è che il Signore usa il plurale, dice: molti diranno, cioè quindi non sarò soltanto io a stare fuori, perché se tu ascolti una storia del genere non puoi rimanere, come dire, così in surplus, come spettatore di quelli che stanno dentro. Ti senti chiamato in causa, dici: ma io dove sto? Sto dentro, sto fuori. E poi pensi: ma io non sarò solo a essere fuori, perché dico: aprici. Quindi è proprio da considerare, da vedere com'è questa storia. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, Questo è il comando di Gesù in questo passaggio. La parola sforzatevi, in greco, quella usata, è scritto agonizzece, che è abbastanza semplice da riconoscere, è la parola italiana agonizzare. Ora, agonizzare è uno che sta tra la vita e la morte, che sta lottando tra la vita e la morte, e da lì viene agonia, che significa proprio lotta. È come se il Signore Gesù ci stesse dicendo: lotta, sforzati come se non vuoi affogare, che stai affogando e non vuoi affogare, sforzati allo stesso modo di entrare per la porta stretta. Ora, voi capite bene che è importante che noi capiamo che cos'è questa porta stretta, dove stiamo noi, contro che cosa dobbiamo lottare, c'è la possibilità di vincere. Queste sono tutte domande che fanno la differenza tra l'essere dentro e l'essere fuori. Perché essere dentro significa essere a posto ed essere salvati. Essere fuori significa credere di essere dentro e di essere a posto e di essere salvati, mentre si è fuori, lontani e persi. Questa è la differenza tra il capire queste cose. E che cosa ci sta sfuggendo tra il pensare quello che Gesù dice: venite a me e io vi darò riposo, e sforzatevi di entrare? Che cosa ci sta sfuggendo? La Bibbia lo spiega, e Gesù, fortunatamente per noi, soprattutto per me, ha raccontato tante parabole, e in una di queste parabole, che adesso andremo a leggere, lui spiega proprio dettagliatamente che cosa significa e come riconoscere dove siamo. In Matteo capitolo 22, al versetto 1, Gesù ricominciò a parlare loro in parabole dicendo: il regno dei cieli è simile a un re il quale fece le nozze di suo figlio. Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò una seconda volta altri servi dicendo: dite agli invitati, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi, i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono chi al suo campo, chi al suo commercio. Poi presero i servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi, a bruciare la loro città. Quindi disse ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade a chiamare alle nozze quanti troverete. E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu piena di commensali. Allora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò un uomo che non aveva l'abito delle nozze. E gli disse: amico, come sei entrato in questa stanza senza avere l'abito delle nozze? E questo rimase a bocca chiusa. Allora il re gli disse ai servitori: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti, perché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Interessiamoci nella storia della parte che più ci interessa. Questo re, che rappresenta Dio, ha preparato delle nozze, ha preparato una festa e ha invitato delle persone. Quelle persone non hanno voluto accettare, e allora è andato a invitarne delle altre, perché prima ha invitato chi magari ne aveva diritto, era parente, fatemi dire così. E poi è andata a invitare gli estranei e ha detto: invitate. In un altro passaggio è scritto di storpi, malati, ciechi, qua è scritto di buoni e di cattivi. Ha scelto e ha offerto la possibilità di entrare a tutte le persone. E questa è la grazia di Dio. Questa è la grazia di Dio. Questa è: venite a me e io vi darò riposo. Non c'è da meritarlo, non c'è da guadagnarlo. È soltanto un andare al Signore e riconoscere che la nostra anima, che il nostro cuore ha bisogno di riposo. In Giovanni 3,16 è scritto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito a figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Perché Gesù non è venuto per condannare il mondo, ma per salvarlo attraverso di lui. Questo è quello che quel re ha fatto. Questo è quello che Gesù ha fatto, è andato sulla croce, è morto per i nostri peccati, è risorto dalla croce, è sceso dalla croce, e su quella croce sapete che cosa ha fatto? In Colossesi 2,14 è scritto: egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano. L'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce, ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Gesù ha fatto tutto quello che c'era da fare, tutto quello che era necessario fare per la mia salvezza, per la tua salvezza, per il perdono dei miei peccati, per il perdono dei tuoi peccati. Non c'è nessuno che ha diritto alla salvezza. Non c'è nessuno che può fare a meno della salvezza. Ma tutti quanti noi abbiamo bisogno di riconoscere le nostre colpe, la nostra condanna, e di riconoscere quello che Gesù ha fatto e farlo Signore della nostra vita. Questo ci permette di essere invitati alle nozze, questo ci permette di essere invitati alla festa, questo ci permette da essere in mezzo alla strada a essere dentro, alla festa che Dio ha preparato per noi. La nostra parte in tutto questo è solo quello di credere in Gesù e di fare di Lui il Signore della nostra vita. Questo ci dà accesso alla festa, ci dà accesso alla sua presenza. Ma la storia che racconta Gesù si conclude con un episodio particolare. Al versetto 11 è scritto: ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. E gli disse: amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre, gettatelo fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti, perché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Non è di facile comprensione quello che il re ha fatto. Se noi non riusciamo a calarci nel contesto di quel periodo storico, in quel periodo, quando si bandiva una festa, era usanza di chi faceva la festa di offrire un vestito a tutti gli invitati per partecipare alle nozze. Quindi non è che gli ha detto il re a quell'uomo: dice, perché non sei venuto vestito bene? Gli ha detto: perché non hai messo il vestito che io ti ho dato? E questa era un'usanza storica che era in vigore nel popolo di Israele, e a quei tempi, anche quando Gesù ha raccontato questa storia. Ed era una grandissima offesa per il re se un invitato, pur avendo ricevuto questo vestito, che in genere era una tunica lunga, bianca, che ricopriva i vestiti che uno aveva, non la indossava. Era un'offesa, perché significava non aver gradito quello che veniva offerto. Ma naturalmente tutto questo ha un significato spirituale, ha un significato per noi oggi. E l'Apostolo Paolo lo ha spiegato in maniera chiara e semplice. E io voglio condividere con voi quello che l'Apostolo Paolo ha detto. È scritto in Colossesi, al capitolo 3, al versetto 5. È scritto: fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, cupidigia. Cupidigia, sono andato sul vocabolario a vedere che cosa significasse. Cupidigia è avere come priorità della propria vita l'arricchimento, l'accumulazione di beni, il desiderio di soddisfare i propri desideri. Se questo è l'obiettivo della tua vita, soddisfare i tuoi desideri, sei cupido. E il Signore ci chiede di far morire queste cose dentro di noi. E aggiunge: per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. Perché se tu non, come quel servo, non indossi la veste che il Signore ti ha dato, è un atto di ribellione. È una ribellione, non ci sono altre parole. E ribellione lo sappiamo tutti, non è come cupidigia che io non lo sapevo, ribellione lo sappiamo tutti. È per queste cose che viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano dalla bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché, ascoltate bene, spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere, vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando in conoscenza e immagine in colui che l'ha creato. Qui non c'è greco, giudeo, circoncisione, non circoncisione, cattolico, testimone di Geova, ateo o quello che vuoi. Cristo è tutto in tutti. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda. Così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione, e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un corpo solo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Ora, non devo essere degno o bravo abbastanza per ricevere l'invito alla festa. Non devo essere degno. Nessuno di noi può pensare, dice, ma vabbè, io sono abbastanza bravo, il Signore mi invita a me. No, non è perché tu sei bravo, io sono bravo. Anzi, peggio sei e più è valido l'invito. Più stanco sei, più aggravato sei e più è valido l'invito. Ma il Re, una volta che sei entrato alla festa, da te e da me si aspetta un deporre e un rivestirsi. Il mio deporre le cose che non vanno e rivestirmi di quello che la Bibbia mi dice che mi devo rivestire, quello onora Dio. Ed è quello che Dio si aspetta da tutti quelli che ha invitato. Non se lo aspetta da chi sta, si aspetta da quelli che ha invitato, che sono, perché è quelli che ha invitato e che sono entrati che hanno ricevuto il vestito nuovo. E la storia ci dice che arriverà il momento che il Signore si farà un giro per vedere che vestito c'hai addosso, che cosa hai scelto di tenerti. Hai fatto come quell'uomo che è rimasto così com'era, o hai messo il vestito nuovo? Verrà il tempo in cui il Signore Gesù verrà a controllare, e se non trova quello che deve trovare, si fa brutto. Questo è quello che la storia, questo è quello che Gesù ci ha insegnato. Qual è la buona notizia? È che siamo ancora in tempo a fare la nostra scelta. Non siamo ancora arrivati al momento che Dio si fa la camminata per dire, vediamo tu. No, siamo ancora nel momento della grazia, siamo ancora nel momento che possiamo scegliere, che possiamo riprendere il destino nelle nostre mani. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 21, al versetto 13, è narrata una storia, ed è la storia di quando Gesù è andato per una delle ultime volte a trovare i discepoli. E c'era Pietro, il film l'avete visto, ha tradito Gesù, se n'è andato, si è messo a piangere. In questo capitolo viene chiaramente fuori che Pietro aveva deciso di vestire i panni vecchi. Ha detto, io vado a pescare. Lui era pescatore e dice, io vado a pescare. E così ha fatto. È andato a pescare, ma non lo so se era lui che non era bravo, era il mare che era inquinato. Pesci non ne prendeva mai. Gesù è andato a incontrarlo. gli ha fatto prendere i pesci, poi si è seduto attorno a un fuoco e si è messo a ragionare con Pietro. Non lo ha rimproverato e aveva di che rimproverarlo. Non gli ha fatto una predica e aveva di che predicare. Gli ha fatto una domanda semplice, chiara, diretta. Gli ha detto: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Simone di Giovanni, mi ami più di questi? E quando ha detto mi ami più di questi, non stava parlando degli altri discepoli, mettendoli in competizione. Stava parlando delle reti, stava parlando dei pesci, stava parlando della barca, stava parlando della vita che stava vivendo. Mi ami più di questi? Da lì noi capiamo se abbiamo attraversato la porta stretta. Non ce lo deve venire a dire nessuno. Non deve venire nessuno a dirci: ma tu non ti preoccupare che hai attraversato la porta stretta. Oppure no, tu ancora non hai attraversato la porta stretta. Ognuno di noi lo sa per sé. E quando Gesù viene a vedere se hai attraversato la porta stretta, ti dice: mi ami più di questi? E a me suona come se mi dicesse: mi ami di più del tuo carattere, mi ami di più dei tuoi vizi, mi ami di più delle tue paure, mi ami di più dei tuoi risentimenti, mi ami di più della tua vendetta, mi ami di più, mi ami di più. Non è scritto quel che ha risposto Pietro, però se ne sono visti gli effetti dopo. Ognuno di noi, a questa domanda che Gesù fa, mi ami di più, sa che cosa sta rispondendo e sa se ha attraversato la porta stretta o se non l'ha attraversata, perché in mezzo ci sta lo sforzarsi di non amare la vendetta, ma ricercare il perdono, non amare l'impurità, ma ricercare la santificazione, non amare il vizio, ma amare la purezza. E non ci viene automatico, non ci viene automatico. Se a qualcuno gli viene automatico, buon per lui. A me no. È tutti i giorni una scelta. È tutti i giorni una decisione. È tutti i giorni un rispondere e dire: Signore, sì, ti amo più di questo. Ti amo più di questo. E questo ci fa passare la porta stretta. Questo ci fa passare la porta stretta. Non, è la nostra decisione di amare di più il Signore. Noi non possiamo partecipare alla festa con i nostri vecchi vestiti. Noi non possiamo andare nel regno dei cieli con i vestiti vecchi. Non lo possiamo fare. Arriverà il momento che Dio ci dirà: senti, per piacere. E arriva. Arriva. Perché il Signore non è solo buono, è anche giusto. Non è solo pieno di grazia, è anche santo. E non ci permetterà di contaminare il suo regno con la nostra sporcizia. Per questo ci ha dato una veste nuova, che noi possiamo scegliere di indossare. Pietro ha fatto la sua scelta. Adesso sarebbe normale e opportuno che ognuno di noi facesse la sua scelta. questa mattina, adesso, tu che cosa vuoi dire a Gesù che ti sta chiedendo: mi ami più di questo? Che cosa gli vuoi dire? Pronto, pronto, non si sente. Il Signore ti sta chiamando alla cabina. E si aspetta una risposta. E il suo chiamare è dire: vieni a me che sei stanco e oppresso, e io ti darò riposo. Ma a noi sta a fare quel passo, a noi sta a fare quella decisione e dire: sì Signore, io mi voglio sforzare, io mi voglio impegnare di amarti di più di tutto questo. Questo fra la differenza tra essere fuori o essere dentro. E tu per te lo sai dove stai, e io per me lo so dove sto. Ma questa mattina noi possiamo scegliere di cambiare la nostra posizione e di fare un passo verso Gesù, che non è venuto a rimproverarci, non è venuto a farci la predica, è venuto soltanto a dirci: mi ami più di questi? Vogliamo alzarci in piedi e pregare? Signore Gesù, io ti voglio ringraziare perché la tua parola è la verità. Ti voglio ringraziare perché la tua parola è vera e ci offre sempre un'altra possibilità di metterci dove tu ci vuoi, di chiamarci a vivere la vita che tu hai preparato per ognuno. Signore, io ti prego che questa mattina la tua voce e il tuo amore possa essere al di sopra di tutto, e ti prego che la nostra risposta possa essere quella: sì Signore, io ti amo, per me e per ognuno di noi. Grazie Gesù.